e progenie scende dal ciel nuova. Per te, poeta fui, per te, cristiano. Ma perché veggi me ciò che io disegno, a colorar distenderò la mano. Giare al mondo tutto quanto pregno della vera credenza, seminata per i messaggi dell'eterno regno. E la parola tua, sopra toccata, si consonava a nuovi predicanti, ond'io a visitarli presi usata. Vennermi poi parendo tanto santi che quando Domizian li perseguette, senza mio lacrimar non fur lor pianti. E mentre che di là per me si stette, io li sovvenni, e lor dritti costumi fer dispregiare a me tutte l'altre sette. E pria che io conducessi i greci a fiumi di Tebe, poetando, ebbi io battesmo, ma per paura, chiuso cristian fumi, lungamente mostrando paganesmo, e questa tiepidezza al quarto cerchio cerchiarmi fe più che il quarto centesmo. Tu dunque, che levato hai il coperchio, che m'ascondeva quanto bene io dico, mentre che del salire avem soverchio, dimmi dov'è Terenzio, nostro antico, Cecilio, Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati ed in qual vico. Costoro e Persio ed io ed altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altro mai nel primo cinghio del carcer cieco. Spesse fiate ragioniam del monte alle nutrici nostre sempre seco. Euripide venosco e Anacreonte, Simonide, Agatone e altri piue greci che già di lauro ornar la fronte. Quivi si veggion delle genti tue Antigone, Deifile ed Argia, ed Ismene si trista come fue. Vedesi quella che mostrò l'Angia, evvi la figlia di Tiresia e Teti, e con le suore sue, dei Damia. Tacevansi amendue già li poeti, di nuovo attenti a riguardare intorno, liberi dal salire e da pareti. E già le quattro ancelle eran del giorno rimase addietro, e la quinta era al temo, drizzando pura in sull'ardente corno, quando il mio duca, io credo ch'allo stremo le destre spalle volger ci convegna, girando il monte come far solemo. Così l'usanza fu lì nostra insegna, e prendemmo la via con men sospetto, per la sentir di quell'anima degna. Essi giran dinanzi, ed io, soletto di retro, ed ascoltava i lor sermoni, ch'a poetar mi davano intelletto. Ma tosto ruppe le dolci ragioni un alber, che trovammo in mezza strada, con pomi, ad odorar soavi e buoni. E come abete in alto si digrada, di ramo in ramo, così quello ingiuso, credio perché persona su non vada. Dal lato onde il cammin nostro era chiuso, cadea dall'alta roccia un liquor chiaro e si spandeva per le foglie suso. I due poeti all'alber s'appressaro ed una voce per entro la fronde gridò: di questo cibo avrete caro. Poi disse: più pensava Maria onde fosser le nozze orrevoli ed intere, ch'alla sua bocca cor per voi risponde. E le romane antiche per lor bere contente furon d'acqua, ed agnello dispregiò cibo ed acquistò savere. Lo secol primo quant'oro fu bello, fe savorose con fame le ghiande e nettare con sete ogni ruscello. Mele locuste furono le vivande che nudriro il Battista nel diserto, perché egli è glorioso e tanto grande quanto per l'Evangelio v'è aperto. Fine del canto 22.